Storiacce di Raffaella Calandra. Io ricordo di avervi visto esaminare migliaia di assegni bancari che servivano per ottenere la prova dei contatti tra alcune delle persone imputate, e ciascuno di questi assegni circolari veniva fisicamente guardato a mano e studiato in ciascuna delle girate. Conseguentemente partiva la richiesta di identificazione. Tutto questo veniva registrato in una serie di quaderni e di agende per poter avere in ogni momento, come oggi si fa con i computer, ma allora tutto questo si faceva a mano, la possibilità di ricercare la connessione tra una persona e un'altra. Giovanni, ma secondo te questa mafia esiste davvero? Senza tralasciare i particolari. Questo era il metodo Falcone: seguire i soldi dei mafiosi e pensare come loro, le rivelazioni dei pentiti, cioè, e le connessioni finanziarie. E 25 anni dopo la strage di Capaci, quell'attentatuni da cui tutto cambiò, questa resta una delle principali eredità del giudice più isolato, osteggiato e criticato in vita, per poi essere celebrato in morte. Un metodo oggi più necessario che mai, oggi che la mafia fa più affari che morti, oggi che ha raffinato i suoi strumenti e ampliato i suoi orizzonti. Un metodo che deve fare i conti con sfide nuove come l'anonimato della moneta virtuale. Ed è da qui allora che parte questa puntata di Storiacce. La corruzione è ormai lo strumento privilegiato per le mafie per entrare nell'economia legale, per entrare nelle istituzioni. Falcone lo intuiva con la sua capacità di guardare più lontano degli altri, ma non era ancora patrimonio di conoscenza affermato e diffuso, nemmeno nella magistratura. Quindi diciamo, l'insegnamento di Falcone è questo, se dopo vogliamo sintetizzarlo: seguire il denaro, seguire la corruzione, seguire il riciclaggio, seguire tutto ciò che permette alle mafie di entrare e di insediarsi nei meccanismi e nei gangli dell'economia legale per condizionarla e inquinarla. Franco Roberti riveste quel ruolo di procuratore nazionale antimafia che Giovanni Falcone aveva immaginato quando, nel tracciare l'impalcatura necessaria per contrastare i clan, capì per primo quanto fondamentale fosse creare una struttura centrale che condividesse informazioni e competenze. Proprio come ora l'Italia si batte più di tutti in nome di una cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo. E così per primo Falcone intuì anche come, insieme alla violenza, la corruzione fosse destinata a diventare lo strumento privilegiato dei boss per ottenere appalti, nomine e favori. Ormai è come pescare in un mare dove le soglie sono state abbassate, e quindi la facilità di trovare persone disposte a fare questo tipo di operazioni. In modo mafioso, la famiglia Arena di Isola Capizzuto, che è una famiglia di 'ndrangheta di serie A, controllava il CARA. Almeno dal 2004 che l'andrangheta è dentro il CARA. Poi abbiamo documentato, abbiamo filmato anche la qualità del cibo. Noi solitamente quel cibo lo diamo ai maiali. Tante volte la corruzione poi si sposa con la necessità di dare una copertura a questo genere di operazioni. Quindi molte volte partiamo da quella che noi chiamiamo classica, semplice, anche se molto insidiosa, evasione fiscale, quindi emissione di fatture per operazioni inesistenti, che magari nascondono fonti di corruzione che sono il sintomo di attività più importanti. Così, a suon di mazzette, la mafia entra nella grande distribuzione, in 4 sedi della Lidl, secondo l'inchiesta di Hilda Boccassini. Così ancora, ricostruisce il procuratore Nicola Gratteri, si impossessa del business della gestione dei migranti a Isola Capo Rizzuto. Ma seguendo il flusso dei soldi, a volte si può arrivare a sbattere su fiduciari o fondi stranieri le cui risorse restano però opache se decidono di investire in una società non quotata. Oppure si può arrivare alla grande sfida dei Bitcoin, quell'unità di conto che dietro stringhe di numeri e lettere di fatto garantisce l'anonimato e trasforma la moneta virtuale nel canale privilegiato per un riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo. E già il gruppo d'azione finanziaria nel 2014 avvertiva che i Bitcoin forniscono un nuovo e potente strumento per criminali, terroristi ed evasori, ricorda Pier Giorgio Samaia, capocentro della direzione investigativa antimafia della Lombardia. Non avendo un valore reale agganciato a un mercato, ma essendo proprio un frutto di una convenzione, si presta bene a diventare un bene raro e quindi con un valore molto facilmente e velocemente interscambiabile e non tracciabile da nessuna parte. Ecco, ma voi avete strumenti in qualche modo per tracciare, per studiare anche il flusso dei finanziamenti attraverso il Bitcoin, o in questo non ci siamo ancora aggiornati adeguatamente? Ci si sta lavorando. In realtà Bitcoin è, se vogliamo, la punta dell'iceberg. E altri strumenti nati in maniera lecita per tutt'altri scopi, in una forma come sempre di eterogenesi dei fini, vengono utilizzati per scopi della criminalità organizzata. Ad esempio? Mi riferisco ai money transfer. I money transfer che tradizionalmente dovevano servire per permettere veloci rimesse da parte di migranti ai paesi di provenienza, si sono rivelati uno strumento facilissimo e assolutamente capillare per spostare capitali da un paese all'altro senza lasciare nessuna traccia. E questo perché i capitali mafiosi camminano verso strumenti e approdi dove le leggi con più difficoltà riescono a stanarle, in una mescolanza a volte strettissima tra lecito ed illecito, per cui si accetta la legalità solo finché non limiti i guadagni. E tutto diventa allora mescolato e mimetizzato, fotografa il procuratore Roberti. E quante volte sarà capitato di interrogarci sul continuo cambio di gestione di un locale, ad esempio, sull'esplosione improvvisa di ricchezza di qualcuno, su posti sempre vuoti ma che continuano a restare sempre aperti, o ancora su faraoniche sale gioco, ad esempio, aperte in mezzo al niente. E chissà quante volte avremo anche noi sentito puzza forte di riciclaggio e ci saremo chiesti: ma perché non lo sequestrano? Ad esempio, perché i soldi sporchi sono stati ben mimetizzati o ormai rimessi puliti all'interno dell'economia legale, e questo della bassa soglia dell'illecito pone anche un grande tema politico, avverte il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che saluta con soddisfazione il prossimo passo in avanti nelle norme antiriciclaggio. Siamo in attesa che il Parlamento approvi il decreto legislativo che attua la quarta direttiva europea antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Sarà un passaggio molto importante perché si accingono a dare diverse normative a delle buone prassi che abbiamo già da molto tempo individuato e pratichiamo già da tempo. Per esempio quella dell'elaborazione tempestiva delle segnalazioni di operazioni sospette che vengono all'unità di informazione finanziaria dagli operatori, dagli intermediari bancari e finanziari, oltre che dai professionisti. Sarà anche più concretamente possibile cercare di individuare i soldi riciclati. Purtroppo è un fenomeno molto diffuso di utilizzo del sistema imprenditoriale economico legale per fini illegali. Per esempio nel settore dello smaltimento dei rifiuti, raccolta e smaltimento di rifiuti, da anni in Italia c'è una tale commistione tra legale e illegale, tra livello legale e livello illegale, che è veramente estremamente diffusa e capillare. La legalità possibile, lo dico diciamo ironicamente, è quella di chi ritiene di potersi far finanziare dal mafioso perché magari altrimenti perde competitività sul mercato, di quello che ritiene di poter risparmiare sui costi di smaltimento per poter conseguire quei profitti che si riprometteva di conseguire. Cioè la legge viene rispettata nella misura in cui non incide sui profitti attesi dalle imprese. E questo è un fenomeno molto diffuso, che io ho segnalato molte volte, l'abbiamo segnalato anche nella relazione, e naturalmente non è solo un problema di contrasto giudiziario, ma è anche un grande problema politico che abbiamo nel nostro paese. Perché dà l'idea della mimetizzazione delle mafie. Della mimetizzazione e di una legalità limitata, e contemperata alle esigenze del profitto. Come dimostrano molte indagini e anche molti processi, purtroppo sta passando il criterio per cui i capitali mafiosi o comunque l'ingerenza delle mafie nell'economia legale è un dato di fatto sul quale, diciamo, si può intervenire ma non si può radicare. Invece io penso, seguendo proprio l'insegnamento di Falcone, che i capitali mafiosi e le mafie stesse possono essere sconfitte, non contenute, sconfitte. Eppure, in questi 25 anni dopo Capaci, dopo la strage da cui tutto è cambiato, molti passi in avanti sono stati eppur fatti proprio nell'affinare strumenti, nella ricerca dei tesori dei clan. E così, anche seguendo le tracce dei soldi, gli investigatori pensano di arrivare all'ultimo super latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Storiacce. Per cercare di ricostruire determinate vicende bisogna cercare di comprendere le dinamiche interne di queste vicende, e per far questo bisogna cercare di pensare come gli altri avrebbero potuto comportarsi in determinate situazioni. Conoscerli, e conoscerli così bene da capire prima cosa e come avrebbero fatto. La grande forza di Giovanni Falcone fu proprio questa: riuscire ad entrare nei segreti di Cosa Nostra attraverso le rivelazioni innanzitutto di Tommaso Buscetta e attraverso il certosino e paziente lavoro di seguire il flusso dei soldi. Follow the money è così diventato il suo metodo di lavoro. E oggi, 25 anni dopo Capaci, anche una delle imprescindibili eredità del giudice simbolo della lotta alla mafia, insieme all'amico Paolo Borsellino, che così raccontava prima di essere ucciso come avevano imparato a condurre le indagini finanziarie. Nessun corso di specializzazione. Avete l'aiuto da parte? Siamo quasi tutti autodidatti. Con le difficoltà naturalmente che questo comporta, anche il rallentamento quindi delle vostre indagini. Io personalmente dalle prime indagini bancarie che ho fatto dovevo addirittura imparare che cos'era la distinta, perché non avevo fatto mai versamenti. E se un tempo il pool di Palermo controllava ogni girata di ogni assegno, oggi i bonifici, versamenti, operazioni in valuta digitale vengono passati al setaccio dagli investigatori, oltre agli appalti ovviamente, e diventano materia per segnalazioni sospette inviate dalla Banca d'Italia. Oltre 40.000 nei primi sei mesi del 2015 e moltissime partono da Milano, la capitale economica del paese, ricorda il colonnello Pier Giorgio Samaia, capocentro della DIA. Dal punto di vista ad esempio delle segnalazioni per operazioni sospette, che ormai hanno superato ampiamente il numero di 100.000 all'anno, in Lombardia sono concentrate oltre il 20% delle stesse, ce ne sono addirittura 26.000 soltanto nello scorso anno. Si possono fare stime molto generiche su quello che può essere il volume d'affari delle mafie. Si va da stime prudenziali che parlano dell'1% del prodotto interno lordo, quindi parliamo comunque di 15 miliardi di euro all'anno, a stime a livello internazionale che invece implicano qualche punto percentuale del PIL. Parliamo comunque di cifre colossali. Le segnalazioni per operazioni sospette sono una banca dati di informazioni incredibile per il nostro lavoro. Ben si coniugano con una recente direttiva del Ministro dell'Interno, con le quali è passato il concetto di circolarità informativa. La mafia oggi, già lo dicevamo, fa più affari che morti, e così anche la caccia all'ultimo superlatitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ancor più che nella collaborazione dei pentiti, altra grande intuizione del metodo Falcone, passa soprattutto attraverso le sue spese e i suoi investimenti, come ci raccontava già il procuratore aggiunto Teresa Principato. Sono servite naturalmente a restringere sempre più il cerchio intorno al latitante, e hanno avuto il preciso scopo di fare terra bruciata intorno a lui, togliendogli la linfa vitale costituita dai suoi referenti e togliendogli soprattutto il denaro delle imprese che costituivano la cassa comune. Il mantenimento di questo latitante, che è un latitante un po' diverso, è un latitante che spende molto, che non si rifugia in campagna, ma è un latitante che parte. latitante che viaggia spesso, è un latitante che ama vestire bene, è un latitante che ha molte donne, donne in varie parti d'Italia e anche in altri paesi, e anche le donne hanno il loro peso. Come si potrebbe cercare un super latitante se non si mettono insieme tutte le informazioni sul suo conto, e come si potrebbero ricostruire alleanze e affari di un clan se non si seguono i suoi interessi nel loro insieme fin dove essi portano? Esattamente come ora nella lotta al terrorismo internazionale, come si può pensare di indagare ciascuno limitatamente ai propri territori se si tratta di jihadisti che arrivano da fuori e che usano tutta una rete transnazionale? Ed è per questo che l'Italia si batte, spesso inascoltata, per ottenere una procura europea antiterrorismo e antimafia, proprio come in questi 25 anni, dalla strage di Capaci e Via D'Amelio, ha sempre più fatto circolare informazioni e competenze tra le varie distrettuali antimafia, come ricorda il procuratore nazionale Franco Roberti. Io che sono un vecchio del mestiere vedo processi di riciclaggio che fino a 10 anni fa non ci sognavamo nemmeno. Oggi si fanno questi processi. I processi si fanno. Il problema è quello dei tempi del giudizio penale, che non sono confacenti alle esigenze di una risposta tempestiva e perciò efficace al fenomeno criminoso, al fatto criminoso. Quando la sentenza arriva dopo molto tempo, e magari siccome è passato troppo tempo è una sentenza di prescrizione, non si dà una risposta, si elude la risposta. E quindi si incoraggia il crimine, perché il crimine, per la scelta di delinquere, soprattutto in questi delitti di criminalità organizzata economica, e penso proprio al tema dei rifiuti, penso al tema dei reati nell'agroalimentare, penso diciamo al tema dell'inquinamento ambientale. La scelta di delinquere nasce da un calcolo costi-benefici. Se io penso che violando la legge guadagno molto e rischio poco, io violo la legge. Se so invece di rischiare molto, probabilmente non la violo. Ecco perché l'importanza che vorrei far capire di un processo penale efficiente ed efficace, che è sempre comunque il miglior deterrente contro la criminalità organizzata di ogni tipo, economica, mafiosa, economico-mafiosa, terroristica. Il processo penale, il giudizio penale, la giustizia penale debbono far paura a chi delinque, a chi vuole delinquere, e debbono rassicurare gli onesti, e deve rassicurare gli onesti. Il nuovo decreto antiriciclaggio si occupa anche della prevenzione dell'utilizzo del sistema di moneta virtuale a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. C'è tutto un capo, una sezione della nuova legge che si occuperà di questa tematica. Poi naturalmente bisogna essere preparati, bisogna aggiornarsi professionalmente, bisogna diciamo decidere anche in base a buone prassi come intervenire per prevenire l'impiego del bitcoin o della moneta virtuale. Però il tema è affrontato in questo nuovo disegno di legge. Palermo è in genere una città sonnolenta. Un eroe tragico, uno degli eroi di Verdi, solo nella sua battaglia. In musica Giovanni Falcone potrebbe essere raccontato anche così. E così ha fatto Nicola Sani, sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna e compositore, nella sua opera Il tempo sospeso del volo, quello da Roma a Palermo di quel 23 maggio 1992, un'opera che ha fatto il tutto esaurito anche a Berlino. Nasce da un progetto che ho condiviso con Franco Ripa di Meana, con il quale abbiamo pensato di ricostruire un percorso che un po' la musica di oggi aveva perso, cioè il rapporto con l'impegno sociale, con la nostra storia. Falcone assomiglia a un eroe perdente di Giuseppe Verdi, è un eroe verdiano, è una figura progressivamente lasciata sola, isolata fino a quando non è stata ammazzata. È importantissimo il suo rapporto con il mondo circostante, la mafia ci ha portato a disegnare un'opera di tinte scure per sole voci maschili, laddove invece Francesca Morvillo è echeggiata da un coro di voci femminili fuori scena che rientra nello spazio d'ascolto tramite i live electronics e gli altoparlanti. E per voi cosa rappresenta Giovanni Falcone? E vi ricordate dove eravate quel 23 maggio del 1992? Se vi va di condividere i vostri ricordi, scriveteci a storiacce@radio24.it, oppure ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto.